I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Alle volte ritornano e stiamo parlando della ventennale vicenda delle quote latte italiane. La Commissione europea ha infatti deferito al nostro paese, alla Corte di Giustizia europea, per il mancato recupero da parte dell'Italia di 1.750.000.000 di multe ancora da pagare da parte degli allevatori che negli anni hanno sforato le quote assegnate di produzione del latte. Secondo la Commissione europea, il fatto che lo Stato italiano ancora non abbia recuperato questi soldi si configura come di fatto un aiuto di Stato agli allevatori che non hanno rispettato le regole europee. Ma al di là di qualunque polemica politica, è noto infatti che la Lega è stata accusata in passato di avere aiutato i cosiddetti splafonatori, occorre mettere i puntini sulle i. Nulla c'entra infatti in questa vicenda la difficoltà che sta attraversando il settore lattiero caseario italiano. Su oltre 31.000 produttori di latte, quelli che non hanno voluto rispettare le quote di produzione sono poco più di un migliaio, e questo va a discapito di tutti, la stragrande maggioranza dei produttori onesti, che negli anni non solo hanno rispettato le quote, ma quando necessario hanno comprato quote di produzione da altri allevatori. Per favore, quindi, non si evochino le difficoltà del settore dell'agricoltura quando si parla di un numero esiguo di allevatori illegali, oltre che splafonatori. Per ora, le uniche vittime sono i contribuenti onesti italiani che hanno dovuto anticipare 1.750.000.000 di euro. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Il celebre spread tra i BTP a 10 anni italiani e i Bund tedeschi è sceso sotto quota 100. Il mercato, si sa, vive di soglie psicologiche e quota 100 era proprio una di queste. Scendere a 99 e anche più giù però non significa automaticamente che l'Italia è diventata improvvisamente virtuosa. Chi compra titoli di Stato fa razzia di BTP perché in Europa sono quelli a più alto rendimento a parità di rischio. Ormai il mercato attribuisce ai titoli italiani lo stesso rischio attribuito a paesi anche più blasonati. Ciò che conta è l'attesa del famoso quantitative easing annunciato dalla BCE. I dettagli di come questa gigantesca emissione di liquidità imminente hanno sorpreso favorevolmente i mercati che già stanno scontando quella valutazione positiva. Ora il BTP a 10 anni ha un tasso intorno all'1,36, l'omologo spagnolo è all'1,27, sono valori che fino a molto tempo fa erano assolutamente impensabili. È evidente che hanno poco a che fare però con il vero rischio paese e la solidità socio-economica dei due stati emittenti. La riprova arriva dal T-bond statunitense e il titolo decennale di Washington infatti ha un rendimento superiore al 2% ed è inimmaginabile che gli Stati Uniti possano essere creduti meno solvibili dell'Italia o della Spagna. L'importante quindi adesso è non disperdere questo dividendo europeo che porta già nelle casse pubbliche un rilevante sconto nel pagamento del servizio del debito, cioè degli interessi. Nonostante la propaganda, questo nuovo corso non è del tutto merito nostro, lo è ancora in minima parte. Prenderne atto è una promessa importante per non sbagliare i prossimi passi delle riforme. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.